Dog, la realtà condivisa di Gianluca Nicoletti. Neanche un terzo degli studenti parteciperà alle gite scolastiche che iniziano con l'arrivo della bella stagione. A dirlo è la Coldiretti, sottolineando che la crisi ha colpito anche il turismo scolastico. Ci sarà infatti un calo del 20% rispetto al 2012. Perché Ravenna in gita? In Romagna se non si viene a Ravenna non si può dire di aver conosciuto la cultura e la storia di questa regione. I tradizionali viaggi di istruzione di una settimana all'estero, vecchi ricordi. Le famiglie non ce la fanno più e adesso sono i presidi stessi a riconsiderare durate e destinazioni per evitare il salasso genitorio, la delusione ai figli a seconda dei casi. All'istituto Vaccarini di Catania il dirigente è stato costretto ad abbandonare le troppo care opzioni di viaggi all'estero, Germania o Spagna, e a orientarsi verso mete meno dispendiose come la Toscana, l'Umbria e il Lazio o la stessa Sicilia. Per evitare di sottoporre... Chi mi ascolta lo sa che il mio punto di vista sulla realtà è illuminato dai miei gloriosi pregiudizi, che non rinnego, che anzi esplicitamente manifesto senza sensi di colpa o di vergogna. Di fronte al problema che tratteremo questa mattina, che ho anticipato nel lancio, ho un punto di vista ben preciso, che sono pronto a sovrascrivere, a confutare, a contrapporre, a ripensare, a rimmaginare o addirittura a rimettere in discussione dopo quello che mi diranno gli ospiti. Ma sono convinto che le gite scolastiche, così come sono organizzate, pensate, trascinate, orrendamente realizzate, non hanno più senso di esistere. Bisognerebbe radere al suolo l'istituto della gita scolastica, così come inteso, tutta la scolaresca se ne va in un itinerario deciso dalla scuola, tutti assieme appassionatamente, grande occasione di gazzara per i ragazzi, grande occasione di stress per i professori, che sempre meno vogliono andarci, anche perché per loro non corrisponde a una ulteriore emolumento, quindi dice perché dobbiamo farlo, soprattutto una grande responsabilità. I ragazzi in gita si fanno, si ubriacano, scavalcano le finestre, insomma sembra una grande occasione di lecito, giusto e anche auspicabile momento di esplosione panica dello spirito adolescenziale e dell'ormonica compressione di questi ragazzi, ma che ha a che fare la scuola con questo? Voi dici sì, sei capace solo a distruggere. No, io proporrei questo, proporrei all'inizio dell'anno scolastico, mi viene in mente adesso, però lo metto così, mi diranno. La scuola si orienta su 3-4 itinerari possibili, variati a seconda delle diverse inclinazioni, desideri, Weltanschauung dei ragazzi. I ragazzi cominciano a organizzarsi in piccoli gruppi e diventa materia e disciplina scolastica il sapersi organizzare un viaggio. Si cercano in internet il tour operator, fanno delle analisi, capiscono qual è la migliore occasione, si organizzano con calma il gruppo. Quando poi questi piccoli gruppi devono partire, diventa anche questo motivo di materia scolastica, devono tornare con qualcosa di elaborato sul luogo in cui sono stati. Può essere anche il luogo più fantasioso, possono andare anche a Gardaland, a andare sullo scivolo. L'importante è che ne traggano qualcosa di utile, interessante, un loro punto di vista personale. Non ci vanno i professori a seguirli? Molto bene, ci saranno delle organizzazioni di giovani laureati disoccupati, capaci e attenti nelle varie discipline, che potrebbero essere le persone che fanno da tutor, che seguono questi ragazzi. Diventi qualcosa che diventa totalmente svincolato da queste vecchie tradizioni alla Pupiavati, in cui si va tutti assieme, l'insegnante annoiata, stravaccata, con le scarpe per scura comprate in farmacia, con le calze contenitive che non ce la fa più, o il professore in grisaglia, tutto sudato, con la giacca sotto braccio, che deve soltanto urlare, che arriva alla fine, che per lui è stato un vero incubo. Voi cosa ne pensate? 800 24 00 24. La maggior parte degli studenti italiani non va in gita proprio perché non riesce a trovare professori accompagnatori, perché è il professore accompagnatore che si assume la responsabilità dei ragazzi che accompagna in gita, e quindi è abbastanza comprensibile che se la classe è particolarmente indisciplinata il professore non se la senta di assumersi questi rischi, per cui questo è un ulteriore motivo su cui riflettere per avere una buona condotta in classe. Alcuni ragazzi poi ci hanno detto che non possono andare in gita scolastica perché non hanno pagato il contributo scolastico volontario. È vero, Daniele? Sì, Giorgio, può succedere, perché il contributo scolastico, come dice la parola stessa, è volontario. Tuttavia ci sono alcune... C'è anche questo problemino. Non tutti possono permettersi lo standard della gita decisa dalla scuola. È molto difficile, è molto penoso cercare di dire a tuo figlio: guarda, non ce lo possiamo permettere. Cosa dice lui ai compagni? Non posso andare in gita perché sono più povero di voi, ammesso che questo possa essere, o perché i miei genitori in questo momento hanno altre spese da fare. Quindi, secondo me, resto dell'idea che le gite andrebbero personalizzate, piccoli gruppi omogenei. Non è vero che tutti i ragazzi stanno bene assieme, non è vero che hanno tutti gli stessi interessi. C'è magari quello che gli piace andare per musei, e per paura di essere preso in giro dagli altri preferisce aggrupparsi e decidere che è bello andare in gita perché si va in discoteca. Quelli che vogliono andare in discoteca vadano nei posti più in che esistono in Europa e facciano una relazione su quello che è il livello della cultura giovanile in questi posti avanzatissimi. Tutto può diventare materia di disciplina scolastica. Professor Luigi Lengo, buongiorno. Buongiorno a tutti gli italiani. Docente di scuola media, in precedenza di liceo, presso l'istituto di Sesto Cremonese, lei quest'anno già si è sciroppato 3 gite scolastiche. Sì, e ne farò altre 3 prossimamente, una lunedì e un'altra mercoledì. Ma lei deve espiare qualche colpa rispetto ai suoi colleghi, oppure è una sua scelta libera? No, è una mia scelta libera, perché vedo, prima di tutto, io svincolo un po' dal discorso delle gite scolastiche, perché per me sono più viaggi di istruzione. Quindi per lei organizza seriamente e non è la solita gazzara a cui siamo tutti abituati? Io solitamente preparo l'uscita con i ragazzi, parlando di quello che andremo a vedere, informando delle cose che andremo a vedere, e poi, come diceva lei in trasmissione, molte volte io richiedo di fare una relazione scritta di quello che abbiamo visto, anche perché la formazione degli alunni passa anche nella conoscenza di quello che c'è fuori dall'aula e non solo quello che il docente trasmette in aula. Mi fa un esempio di itinerario così capisco. Lunedì io porterò i miei alunni a fare una gita culturale e anche tecnologica, nel senso che noi da Cremona partiamo per andare a Modena a vedere l'aspetto storico culturale della città, e poi nel pomeriggio andremo a vedere la galleria a Maranello della Ferrari. Ah, è fantastico. Beh, questo mi sembra. Questo comunque sono le gite di piccolo cabotaggio: si parte la mattina e si torna la sera, sono quelle meno impegnative, tutto sommato. Orientativamente sì, perché per quanto riguarda il concetto di quello che già detto in trasmissione, oramai le scuole sono al vicino per quanto riguarda l'aspetto di budget. Non c'è un soldo, è chiaro. Il contributo dei singoli genitori molte volte ricopre altre spese della scuola che sono magari legati alla mancanza della carta per la stampante o alla carta igienica. Sì, chi ha figli sa che ogni tanto ti chiedono di portare la carta igienica a scuola, soprattutto nelle scuole elementari e materne, capito? Quindi... Sì, ma vale anche per le scuole medie, anche per le scuole superiori. Tutto. Cioè anche al liceo si va con rotoli di carta igienica nello zainetto? Al liceo si chiede ai ragazzi di contribuire per quanto riguarda la release di carta per la stampa, o anche molte volte si arriva anche a chiedere contributi per quanto riguarda anche altro. Sì, sennò, se c'è carenza si deve intercambiare le varie risme, è imbarazzante. Sì, infatti, questa è la situazione della scuola nazionale italiana oggigiorno, legata alla crisi, ma legata anche a tanti altri fattori, quali sono state le varie riforme che si sono interessate più dettagliare sostanzialmente nell'istruzione e nella cultura generale. Però, tornando al discorso delle uscite didattiche e delle famose gite scolastiche, che riguarda anche un aspetto anche ludico, perché questa mia seconda classe siamo già stati a Genova a fare delle attività didattiche, anche in quel caso era una giornata legata alle esperienze di geologia, ma in tutto ciò c'era anche l'aspetto ludico. I ragazzi, ma lei quanti ragazzi gestisce in gita? Che numero porta di ragazzi? Di solito sono 3 o 4 classi con una media di 60-80 alunni e siamo in 4, massimo 5 docenti. Non le sembra? Quanto costa la gita ogni ragazzo, per capire a testa? €30. Quanto, scusi? E una giornata sola attorno ai 30 euro. 30 euro, vabbè, il prezzo di una pizza e una birra non è che sia una cosa... Però il contributo non si può chiedere di più. Sì, sì. Io ricordo quando sono stato a Roma con una quarta di un liceo scientifico tecnologico, il costo dell'uscita didattica, siamo stati 4 giorni fuori e è venuto sui 400 euro. E a voi docenti viene riconosciuta una diaria particolare? No, non siamo più diaria, non c'è nessun riconoscimento. Andate gratis, no, questo è importante che si sappia, sennò ecco. È abolito ogni genere di incentivo economico, lo fa per pura missione, per questo non lo vuole più fare nessuno, perché dice chi me lo fa fare. È anche la questione della responsabilità. Qualunque cosa accada in gita, la responsabilità civile e penale ricade sui docenti. Ecco, devo dire che è una bella presa di responsabilità e ammiro molto il fatto che lei lo faccia gratuitamente, nessuno glielo potrebbe imporre, e prendendosi anche la responsabilità penale e civile di una truppa così importante di ragazzi. Quindi è fortemente motivato, non c'è nulla assolutamente da dire. Però secondo lei è possibile ripensare questo modello, una chiave un po' più moderna, un po' meno massiva? Io penso che 60 ragazzi tutti assieme cominciano ad essere un po' tanti, forse potrebbe fare delle cose più mirate, non è così detto che tutti debbano avere lo stesso interesse. Lei come la pensa? Allora, la questione è legata al fatto che molte volte oggigiorno si tenta di fare anche uscite più brevi con chilometraggi molto più limitati, in quel caso magari c'è anche la riscoperta di luoghi molto vicini alle scuole, un museo piccolo di scienze naturali, io parlo per le mie materie, oppure la riscoperta di una chiesa o di un piccolo borgo che sia vicino alla scuola. Questo permetterebbe, quello che stavo dicendo lei, di poter fare anche piccoli gruppi, anche di varie classi, e portare pochi ragazzi per volta a riscoprire anche il territorio. Allora, fermiamoci un attimo, professor Luigi Lenghi, sentiamo velocemente un ascoltatore. Elio, buongiorno. Abbassi, spenga la radio. Pronto? Sì. Sì. Buongiorno a tutti i telespettatori, a voi di Radio 24, che guidando un pullman turistico ascolto molto volentieri. Sono contento che devono ascoltare così anche i ragazzi, e giustamente vengono condizionati sin dalla fanciullezza ad ascoltarci. Certo, ecco, io ho cominciato a fare gite scolastiche da più di 30 anni, sono 31 anni che faccio l'autista di pullman. Purtroppo ultimamente non ne faccio quasi più, perché volevo entrare in questo discorso dell'organizzazione, che per la legge sulla trasparenza, che sembra che gli insegnanti che organizzano queste gite avessero degli interessi economici, cosa che non era... Abbiamo chiarito vera. Che non esiste più questa cosa. Esatto. Purtroppo però hanno delegato tutta l'agenzia di viaggi, che fanno, organizzano dei viaggi che sono delle gite, mentre, ecco, mi ha anticipato quell'insegnante bravissimo, una volta la gita veniva organizzata dagli insegnanti, a volte chiamavano me come autista e c'era la scelta dell'autista che aveva esperienza per quella zona, per quel determinato posto, e insieme si ragionava sulle cose più interessanti in base alla scuola. Quindi lei, Elio, parla di una organizzazione un po' arcaica, quando ancora non è così sviluppato il business dei tour operator, degli agenti di viaggio. Esatto. Oggi è chiaro che la scuola si affida all'agenzia, dando delle indicazioni, e poi l'agenzia fa il suo mestiere. Però è chiaro che questo diminuisce lo spessore di partecipazione della scuola in tutte le fasi dell'organizzazione. Sbagliato, perché invece addirittura troviamo un istituto per il turismo, dovrebbe funzionare così, che quelli di quinta dovrebbero, i ragazzi di quinta che usciranno autorizzati a organizzare viaggi, dovrebbero organizzare la gita per le classi insieme con un dirigente di un'agenzia che dia la professionalità e risparmiare nei costi. Perché devono un Beh, lei, Elio, lei è chiaro, tira acqua al suo mulino, io lo capisco. Ci sono vari punti di vista, qualcuno potrebbe dire che l'agenzia ne fa tante, il suo mestiere, e si abbassano anche i costi proprio perché viene personalizzato. Sentiamo il professor Mario Rusconi. Buongiorno, professor Rusconi, che buongiorno a lei. Vicepresidente dell'Associazione Nazionale Prestiti, AMP. Dal punto di vista dei prestiti, vi state ponendo questo problema dello svecchiamento, dell'adeguamento della gita scolastica alle nuove esigenze della scuola, che con tutti i suoi limiti, tutte le sue sgangheratezze, i suoi problemi economici, potrebbe forse pensare un modello, ma sono io a pensarlo in questo momento, magari mi sbaglio, di gita scolastica più attinente a quelli che sono i tempi, le aspettative, la frammentazione del tempo dei ragazzi oggi? Ma guardi che il paradosso è proprio quello che lei stava dicendo prima, cioè che ciò che lei auspicava per quanto riguardava un buon viaggio di istruzione, niente meno è previsto da norme, ma sappiamo bene in Italia le norme come vengono prese in genere dai cittadini, dal 1982. Le scuole che funzionano bene, ecco, anche qua nel nostro paese tutto sta poi alla virtù individuale, chiaro. Purtroppo di fronte alla latitanza di quelle che dovrebbero essere i valori generali. Le scuole che funzionano bene, hanno un regolamento per quanto riguarda le gite di istruzione, devono legare il percorso della gita al percorso didattico. Le faccio un esempio: io quando stavo in un altro liceo alcuni anni fa, era un liceo scientifico di Roma, come diceva lei, le uniche due gite ammesse erano Varsavia ed Auschwitz e Berlino. Perché? Perché erano fortemente, per quanto riguarda il triennio dello scientifico, erano fortemente legate allo studio della storia contemporanea, mi sembra più che evidente. Questo tra l'altro ne provoca anche un abbattimento dei costi, perché andare in un'agenzia o da un tour operator e dire guardate, 5 classi nel corso di alcuni mesi andranno a Berlino, altre 7 andranno a Varsavia, vuol dire abbattere fortemente i costi. Il numero naturalmente degli studenti piuttosto consistente che lei faceva notare prima a quel bravissimo professore che ho sentito, ce ne fossero tanti così in Italia, la scuola andrebbe molto meglio, non solo la scuola, è pure vero il fatto che gli studenti sono numerosi, perché se si fa una visita di istruzione per 10-15 studenti i costi diventano altissimi, tour operator gradiscono avere 150-200 studenti, il che viene a confliggere poi con una buona organizzazione della gita, cioè la crisi economica. Converrà, signor Presidente, che è un po' difficile da gestire con tutta la buona volontà e dando per scontato e per assurdo che siano tutti ragazzi attentissimi e motivatissimi. Sì, però guardi, dipende sempre come al solito anche qua dagli insegnanti. Io sono reduce. Sì, sì, se uno ha un pungolo elettronico per contenerli va bene, ma se no è un po' difficile. No. Infatti guardi, io sono reduce da un viaggio a Parigi, al Louvre, vedere questi bambini di scuola elementare con il loro, una seconda elementare, mi hanno fatto una tenerezza infinita, avevano un libretto preparato in precedenza dagli insegnanti con tutte le domandine molto semplici riguardanti il Louvre, ma lei doveva vedere questi bambini, alcuni anche di colore, altri no, e che stavano tutti intorno, si consultavano con un silenzio, diciamo così, generalizzato, che faceva veramente commozione. Ma quegli insegnanti sono preparati però a fare questo. Io guardi, vivo a Roma e ho passato 30 anni della mia vita a Perugia, due città d'arte, le posso dire, lei lo sa, che non è proprio esattamente la stessa cosa quando accade qui da noi. Ma infatti il problema è sempre sulla formazione degli insegnanti, quello che è un problema che non viene messo quasi mai in evidenza. Si dice non so, la scuola va male, le gite funzionano in questo modo, ma lei lo sa che dal 1997 dai contratti della scuola è stato tolto l'aggiornamento agli insegnanti, cioè in poche parole le nostre istituzioni lo so, ho dei figli che vanno a scuola, quindi lo so perfettamente. Considerano l'insegnante meno di un meccanico, perché se il mio meccanico non ha il patentino rinnovato non mi può fare la revisione dell'automobile, l'insegnante fa tutto volontariamente. Ed è quando ci sono insegnanti come quello che lei prima stava a sentire, che lo fa con tale disposizione d'animo, è una cosa molto bella, ma la democrazia non si può basare solo sul volontariato, si deve basare su norme intelligenti, funzionali, che riguardano tutti, e se qualcuno per caso queste norme decide di trasgredirle deve essere sanzionato. Questo è il nostro paese, è un discorso. Sentiamo generale. Sara velocemente. Sara, una madre, buongiorno. Sara, salve, buongiorno. Io sono mamma di 4 che vanno in istituti diversi, dall'asilo fino alle medie, e io mi faccio solo una considerazione, cioè è bellissimo quello che dicono queste persone sui bambini bravissimi al Museo del Louvre, ma io ho 4 figli e la gita è sempre soltanto un'occasione, come per noi quando eravamo giovani, cioè ce lo ricordiamo tutti. Di orribile gazzarra. Cioè i viaggi che abbiamo fatto a Parigi, a Londra, io sono stata a Roma, cioè ma una cosa allucinante. E cosa ha fatto lei in gioventù nella gita scolastica? Niente, noi ce ne andavamo via, non seguivamo nulla, non ce ne interessava assolutamente. E cosa facevate? Ce l'avevamo in giro, era un'occasione per stare senza genitori, liberi e felici, cioè la gita è questo, e quindi con i problemi che ci sono nella quindi scuola, si lasciava andare a poi dare una grande occasione di trasgressione. Ma certo, ma come lo è stato per tutti, chi sì, per sì, lei figurati. Non lo è stato, io la gita. Non posso raccontarlo perché siamo una radio in fascia protetta, ma cioè, abbiamo fatto di tutto. Con i problemi che ci sono, sia economici sia strutturali della scuola, cioè per me è quindi lei è d'accordo che è un istituto sorpassato, almeno alle nostre latitudini. Deve essere eliminata, come adesso, non vanno più fatti. primo perché mettono in difficoltà le famiglie che non possono permetterselo, visto che non ci sono i fondi, i ragazzi di oggi sono pieni di stimoli, fin troppi, escono con i genitori, fanno milioni di attività, anche se a scuola si va e si studia, non è una tragedia. Senza gita, senza viaggio di istruzione, cioè una cosa un po' più rigida non farebbe male sicuramente ai ragazzi di oggi. Sì, diciamo, non in tutti i posti del nostro paese, non in tutte le scuole, non in tutte le realtà i ragazzi sono così stimolati. Per qualcuno è l'unica vera grande occasione, come era negli anni 50 fare il militare e andare a Cuneo per una persona che viveva nel meridione d'Italia. Melog. La realtà condivisa. Anni fa, con una gita con dei professori, la nostra è una classe scuole medie, abbiamo preso una stanza e abbiamo compiuto gli atti più terribili che si possa immaginare dentro quella stanza. Abbiamo sventrato materassi, sventrato comodini, cassetti, sedie, poltrone, tutto. Tutto. E oltre a questo abbiamo, si può dire, urinato un po' da tutte le parti sostanzialmente. E oltre a questo abbiamo fatto anche di peggio, adesso senza mandare nel macabro, insomma, sono schifoso. Eppure nulla di tutto questo è mai stata una notizia. A quel tempo, se avessimo avuto un videocellulare, avremmo ripreso sicuramente tutto quanto. Forse sarebbe stata una notizia, forse sarebbe stato riportato da qualche parte, in qualche giornale. Niente di cattivo, ma insomma, eravamo lì con i professori nell'altra stanza e abbiamo creato un panico, ecco. Ecco, questo è un chiaro coming out di un ragazzo che dice quello che accade in molte gite scolastiche. Non è detto che tutti partano con questa intenzione, ma esiste una sorta di liturgia, una ritualità obbligatoria, che alla fine, quando si fa in gita, si fanno queste cose. Ma guardate, si facevano esattamente 30-40 anni fa, sono le stesse cose facevamo noi, generazione ormai di quasi sessantenni. Quindi evidentemente questa sorta di iniziazione alla gazzarra collettiva attraverso la gita scolastica mi sembra sia un po' datata, non appartenga più a il tempo che stiamo vivendo. Solo per questo ne parlo questa mattina. Volevo aprire però una piccola parentesi. Ho al telefono l'ascoltatrice, Cinzia, è caduta un attimo, adesso la riprendiamo. L'ascoltatrice ci aveva scritto che il programma sta diventando noioso e inutile, e con grande attenzione e grande curiosità l'avevo chiamata perché volevo capire esattamente il suo punto di vista. Può essere che abbia ragione, e quindi sono pronto a ripensare e rimmaginare quello che faccio la mattina con desiderio e intenzione di fare quello che meglio sia possibile fare. Goffredo, buongiorno. Buongiorno a lei. Sì, il suo punto di vista, Goffredo. Il punto di vista, come diceva la sua collega, io sono un vecchio professore di 67 anni. Vabbè, vecchio. Vecchio per modo di dire. 41 anni di scuola, filati, di cui i primi 25 mi sono prestato sempre ad accompagnare i ragazzi nelle cosiddette gite scolastiche, ma che si chiamano in realtà viaggi di istruzione. Quelle lunghe, quelle 3-4 giorni. Sì, sì, di più giorni, sì, esatto. Ora io volevo dire, al di là delle generalizzazioni che si possono facilmente fare, cioè tutti i ragazzi sono scalmanati, tutti, no, non è vero, ci sono una minima parte, per fortuna, che non è così, però devono per forza seguire il gruppo. Esatto, poi quando si è nel gruppo naturalmente... È quello che ho detto io. Sì, infatti concordo pienamente con quello che ha detto. Quindi secondo me le gite scolastiche, viaggi di istruzione, in questo momento almeno sono anacronistiche, servono soltanto a rimpinguare le casse delle lobby, delle agenzie di viaggio, dei noleggi da rimessa e degli alberghi, perché cioè, ragazzi, quando sono tutti assieme, sì, possono esserci anche alcuni motivati, preparati, eccetera, però come diceva anche lei giustamente, quando sono in gruppo poi pensano a tutt'altro, sono in tutt'altre faccende affaccendati. E quindi lei concorda con la mia lettura iniziale che sono fuori del tempo, dubbi. Non c'è più senso, è una cosa non vecchia. Non ci sono dubbi. E un'altra cosa volevo aggiungere, anche la frustrazione degli insegnanti, perché oltre che non viene riconosciuto neanche una diaria, niente di niente, neanche una lira, ma è una responsabilità enorme, perché lì può succedere di tutto. Io le decido solo una. Spesso succede pure di tutto, perché ci sono fatti di cronaca anche molto truculenti, di ragazzi che ci hanno anche lasciato la pelle nelle gite scolastiche, un numero eccessivo, è meno grave, ma anche quello certo è da considerare, di ragazze che sono tornate, sono partite sole e sono tornate che erano in due, quindi evidentemente c'è anche questa attività, che uno può farla anche in orario extrascolastico, perché la scuola deve prendersi anche l'onere dell'ingravidamento clandestino della studentessa. Della studentessa, sicuramente. Quindi, per concludere, diciamo che io concordo pienamente con quello che è stato detto. Ho sentito nel sottofondo anche il preside Rusconi, non so che fosse, sì, era il vostro ospite, che conosco anche personalmente. Quindi il mio parere è che oggi come oggi queste gite scolastiche, viaggi di istruzione, sono anacronistiche, a meno che non si abbia una rifondazione totale dei metodi di insegnamento, dei metodi di preparazione, insomma delle motivazioni. Quello che dicevamo diventa materia scolastica. Dal primo giorno dice: questa materia oggi organizziamo un viaggio, ognuno si organizza in piccoli gruppi, si trovano le occasioni migliori, perché non è detto si debba ricorrere alle catene alberghiere, esistono forme molto economiche, anche molto gratificanti, per viaggiare, per alloggiare. Imparino i ragazzi che il viaggio non è soltanto affidarsi al tour operator, esiste la rete, così impareranno anche a usare meglio gli strumenti di rete, ci sono le occasioni, se hanno tempo per prepararlo, non è detto debbano andare via tutti assieme, poi possono fare piccoli gruppi. Infatti concordo veramente. Grazie Goffredo. Silvano. Sì, buongiorno. Il suo punto di vista. Sì, mia figlia è italo-giapponese, ha frequentato qua sempre la scuola nell'anno scolastico, e quando era giugno partiva per andare in Giappone a frequentare le elementari in Giappone per un periodo di 2 mesi e mezzo. Qui adesso fa la terza liceo. In che città durante d'Italia? In che città d'Italia? Vicenza. A Vicenza, sì. Sì, la terza liceo. Durante l'inverno hanno fatto la settimana bianca in montagna, gli ho detto: mi dispiace, adesso sono pensionato, meno soldi, non posso permettermi di mandarti in montagna, perché non è solo il costo del viaggio, ci vuole anche l'attrezzatura. Certo, è logico. Altrimenti uno non si diverte. No? Comunque, negli anni passati in Giappone, quando andava nel periodo estivo, qua estivo però la scuola era aperta, no? E scuola pubblica naturalmente in Giappone, e hanno organizzato gli insegnanti il viaggio da Osaka, dove andava a scuola, alla Disneyland di Tokyo. Cioè, questi viaggi organizzati, gli scolastici, come si fanno qui, sono finanziati dallo Stato. Però parliamo di un'altra situazione, di un altro modello di vita. Ma si figuri che mia moglie era insegnante, mia suocera era preside della scuola in Giappone, naturalmente, no? Dicono: ma qua siete terzo mondo, cioè non vi accorgete di essere... Silvano, adesso non voglio, perché butto, poi la gente dice che parlo dei fatti miei. Io lo so benissimo, mio figlio sono 3 anni e frequenta 2 volte a settimana l'Istituto di Cultura Giapponese a Roma, già parla e scrive, vedo abbastanza fluidamente il giapponese, non so adesso fino a che livello, però lo vedo la sera, lo dobbiamo bastonare perché non studia il greco e il latino, ma negli orari in cui è libero prende e scrive caratteri kanji. Evidentemente hanno una maniera di avere un rapporto didattico con i ragazzi che stimola all'apprendimento, non è un peso, non sa perché, per lui non è un peso studiare il giapponese, è una purga studiare il greco, il latino, la matematica, la storia, la geografia. C'è qualcosa di fondo, secondo me. Ma le dico che l'insegnante giapponese, no, non è uno che fa l'insegnante per avere il 27 del mese, cioè lo stipendio, cioè lo fa proprio con la volontà, cioè viviamo in Italia e dobbiamo fare i conti con la nostra realtà. Grazie comunque, Fabio. Buongiorno. Sì. Allora, io ho l'esperienza di mio figlio, 12 anni, che per la prima volta è andato in gita in montagna a febbraio quest'anno. Allora, la cosa divertente è stata che tutti questi genitori si preoccupavano a mandare questi figli a 20 sotto zero, a 2000 metri in montagna, e quindi più che una partenza di una gita sembrava una spedizione a livello Himalaya, ecco, giubbotti, giacche a vento, insomma è stato molto divertente questo. I bambini, diciamo, sono tornati praticamente dalla gita tutti ammalati e quindi sono rimasti a casa un'altra settimana da scuola, e mio figlio in particolare è stato una settimana senza andare in bagno, quindi è stato bella sta partenza e poi l'arrivo. Doveva sturarlo al ritorno dalla gita, lo so, succede. Ma è la timidezza che non osano andare nei bagni che non sono quelli di casa, lo so, succede. Mi è piaciuto di più il coinvolgimento dei genitori alla partenza, altro più coinvolgimento, la preoccupazione nel mandare questi bambini a 2000 metri a 20 sotto zero e questa... Vabbè, ma mica stanno al fresco, mica muoio. Fermiamoci un attimo, Andrea Costanzo, buongiorno. Buongiorno. Andrea Costanzo è presidente della FIAVET Lazio, con l'Associazione delle Imprese del Turismo. Il vostro punto di vista: è veramente un business a cui non si può rinunciare, non può essere organizzato diversamente quello delle gite scolastiche? In questo momento qual è il punto? C'è crisi anche dal vostro punto di vista? Allora, per carità, tutto è migliorabile, ho seguito con molta attenzione. Innanzitutto mi piacerebbe inquadrare il problema. La situazione delle agenzie di viaggi in relazione alle organizzazioni delle gite all'interno delle scuole, che noi chiamiamo viaggi di istruzione, è molto variegata. Si va dal viaggio di istruzione all'estero, in Europa, quindi con un grosso valore educativo, didattico, perché i ragazzi vanno a vedere di persona quelle che sono state le situazioni e le zone oggetto magari di studio, fino ai percorsi didattici, educativi all'interno. Quindi siete organizzati anche per fare un lavoro per le scuole, non è generico come aveva detto prima l'ascoltatore? No, ecco, c'è molta varietà e cambia da scuola a scuola, però sicuramente le agenzie di viaggi che collaborano attivamente in questo settore sono di concerto con le scuole, organizzano questo percorso come all'interno di un vero e proprio dell'attività didattica, voglio dire. Quindi la scuola ha visibilità e possibilità di controllo diciamo del programma, del pacchetto, non è che è diciamo a scatola chiusa, prendere o lasciare. No, assolutamente sì, cioè fa parte integrante dell'attività didattica, e su questo vorrei valorizzare sicuramente le motivazioni del viaggio, che sicuramente in determinati casi possono poi sfociare o degradarsi in attività tutt'altro che didattica. Quello mica, però, mica è colpa vostra quello. Sì, infatti, ma questo, come diceva lei giustamente, a volte è l'unico viaggio a disposizione che viene messo a disposizione per uno studente, l'unica occasione magari di andare all'estero o di vivere un'esperienza insieme ad un gruppo, e anche lì c'è una grossa attività, insomma, didattica, educativa, no? A stare al di fuori, lontano dai genitori. Molto spesso sono minorenni, perché viaggiano durante le medie, e quindi momenti in cui altrimenti non viaggerebbero, diciamo, se non con i genitori. Quindi è sicuramente un aspetto da valorizzare. Ma allora, certo, qual è il punto di caduta, mi scusi, per capire, Andrea Costanzo, rispetto a quello che stanno dicendo, rispetto ai tempi? La crisi taglia i fondi alle scuole, il modello sembra un po' superato, perché alla fine tanti ragazzi che per risparmiare, per spendere meno, vanno a fare delle gite a senso unico, perlomeno non mirate alle loro intenzioni, sembrano un po' stridere con la necessità di personalizzazione, di variegatezza, di punti di vista che anche la scuola dovrebbe alimentare. Voi come la vedete in questo momento? Allora, sicuramente c'è crisi. La crisi diciamo ha tanti aspetti. Il primo è certamente quello di avere meno soldi a disposizione per le famiglie, ma ancor più rilevante questo aspetto dei tagli ai professori, che fin dal 2010 con il ministro Gelmini si sono visti tagliare la diaria, si sono visti tagliare qualsiasi tipo di contributo statale per questa attività importante, e gli è rimasto solamente l'incombenza della responsabilità soprattutto sui minorenni di ciò che accade all'estero, quindi questo è sicuramente deleterio. In più, in quest'ultimo anno con il ministro Fornero si sono inasprite, diciamo, le parti fino a tagliare tutte le attività extracurriculari, che quindi sia il dopo scuola come la gita fuori porta o il viaggio di istruzione, sono state tutte quante tagliate da tanti istituti scolastici, portando a una riduzione del 50% dei viaggi di istruzione per la scuola superiore e del 30% sulle medie, che di solito viaggiano. Ecco, io devo dare le linee del traffico, mi sembra, però, ecco, questo dato finale è importante. In realtà c'è stato un taglio drastico, cioè se ne fanno meno, parliamo di abolirle, ma già al 50% in sé il sistema si sta auto-eliminando. Melog, la realtà condivisa. 800 24 0024. Non siamo riusciti a rintracciare l'ascoltatrice Cinzia, che non ha voluto più parlare. Il suo punto di vista è che al programma diventava noioso. Sono pronto a modificare, se c'è un vasto consenso nel farlo, questo programma, ma se un anno fa mi si diceva un programma troppo leggero, troppo monomaniacale, dedicato ad aspetti pruriginosi della realtà, adesso parlo di gite scolastiche, di cosa vi lamentate? Scrivo un altro ascoltatore, ma perché io devo tenere conto anche del pubblico. Per quanto mi riguarda, vuoi parlare anche di acciughe marinate. Non ritengo che il programma sia diventato noioso, magari aumenta il numero di puntate più scazzone, come quella sulle seghe e massaggi cinesi. C'è bisogno di spensieratezza. Va bene, ma ieri abbiamo parlato di leggerezza, quindi stiamo perfettamente in linea con la media dei vostri desiderata. Massimo, buongiorno. Buongiorno. Io invece sono una voce fuori dal coro, nel senso che ritengo le gite scolastiche cosiddette, o meglio le gite di studio, una cosa estremamente utile. Ho dei ricordi meravigliosi dei miei professori che mi hanno preparato per andare a vedere, per esempio, il CNR a Frascati. Io ho fatto fisica industriale e quella... È stato fondamentale per lei, illuminante. Sì, ma lo capisco. Ho avuto dei professori che mi hanno preparato per andare a vedere le mostre di Picasso e ci siamo andati in maniera attenta perché avevo dei professori validi. Poi guardiamo un altro aspetto: mia moglie fa la maestra alle elementari, ha una responsabilità enorme, ma si porta i bambini a vedere delle mostre interessanti. Il problema è che le mostre se le va a vedere prima, e andiamo di solito noi in famiglia a vedercele prima per studiarle, cioè, perché lo Stato non dà nessun supporto agli insegnanti che vogliono lavorare bene. E quindi, come ha detto prima il prese, è tutto basato sull'iniziativa individuale. Laddove c'è un professore serio, motivato, cosciente, che fa il suo mestiere come giustamente andrebbe fatto, la cosa funziona. Quando diventa un lavoro come un altro, un timbro del cartellino indifferente, e si potrebbero confezionare tappe di bottiglia o portare ragazzi in gita scolastica, naturalmente la gita non funziona. Aggiungerei solo un'ultimissima cosa. È vero che la crisi c'è e io la sento come tutti come gli altri. Come tutti noi, certo. Però l'Italia, a differenza di altri paesi nel mondo, ha il vantaggio di avere una quantità di opportunità assolutamente immensa. Quindi in molti casi basta un biglietto del tram o un biglietto ferroviario per andare a fare. Io non sì, io penso, guardi, con la metropolitana di Roma costa un euro e mezzo, dove si può arrivare in posti fantastici. Sì, è d'accordo. Sì. Io non sono d'accordo sulle gite a sciare. A sciare ci vado come famiglia. No, ma d'accordo, così chi può andarci ci va e non c'è il peso di chi ha dei problemi economici dover dire al ragazzo non può andare alla gita insieme agli altri, ma è giustissimo. Mia moglie ha portato i bambini di seconda elementare a fare i laboratori nei musei di Miró o di Kandinsky, e i musei sono apertissimi a fare queste cose. Guardi Massimo, mi fa piacere che di tracciare anche l'altra faccia della luna rispetto al mio iniziale e cosmico pessimismo. Grazie Matteo. Sì, pronto? Un'altra idea fantastica, Matteo. Sì, pronto Nicoletti. L'ascolto. Io volevo segnalare l'esistenza di una modalità alternativa di gite, no? Le chiamerei gite 2.0, ad alto contenuto tecnologico, quindi perfettamente integrate nel contesto attuale, dove la tecnologia è un'appendice relazionale, lei lo insegna da diverso tempo, e che si sposano anche perfettamente col contesto economico della società odierna, quindi la necessità di risparmiare. Cosa fare? Seguire, che ne so, delle start-up, andare agli Apple Store, andare nei luoghi dove comunque si fanno le cose, si costruiscono e si immaginano che i ragazzi amano? Esatto, andare agli Apple Store, portare i ragazzi e scoprire come la tecnologia può avere un senso utilitaristico. Sì, con delle visite guidate, non vanno soltanto lì a vedere gli ultimi modelli. Sì, però sai qual è il problema, Matteo? Nella maggior parte delle scuole italiane, se un ragazzo dice a un professore: io i compiti da oggi li faccio scrivendo sul mio tablet, sul mio computer, dice no, devi scriverli a penna. Perché? Perché non si sa, perché il professore non sa nemmeno di cosa si tratti, perché non c'ha un suo computer personale, perché aspetta gli odi alla scuola. Facciamo un esempio, Nicoletti, facciamo un esempio. Come facciamo a realizzare un film? No, per realizzare un film è chiaro che carta e penna non bastano più, allora a quel punto i ragazzi hanno in tasca uno smartphone, fanno un video all'Apple Store attraverso gli strumenti che sono già integrati nei computer. Quale, questo lo farei anch'io, se io fossi insegnante, farei questo, direi: ragazzi, tirate fuori tutti i vostri strumenti alle tasche, invece che starci a perdere tempo a mandarvi messaggini, vi dimostro con questo strumento potete raccontare dei momenti fantastici, epici del vostro quotidiano, farli, montarli, realizzarli, corredarli di un vostro, una vostra impressione e pubblicarli, questo io farei. Grazie Matteo. Antonio. Ah, buongiorno. Sì. Sono Antonio da Roma. Senta, io sono assolutamente favorevole alle gite scolastiche e mi meraviglio che gli interventi, insomma almeno la maggior parte degli interventi che ci sono stati fino adesso, siano stati tutti abbastanza negativi. Beh, il mondo non va mai come noi vogliamo, spesso non va. No, no, per carità, questo sì, ma su questo punto, cioè, veramente mi è sembrata una trasmissione fatta esclusivamente di pregiudizi. Cioè, ma io sono partito con un pregiudizio, col mio pregiudizio, non me ne vergogno, è glorioso il mio pregiudizio. Secondo me è un modello vecchio, obsoleto. Sono venuti in questa trasmissione degli spunti interessanti di portare ragazzi non nei posti canonici, non soltanto nelle città d'arte, se per loro andare nella città d'arte soltanto una scusa, ma nei luoghi più vicini a quella che è la cultura che loro vivono. Andrebbe allargato il concetto di cultura, il concetto di presa diretta degli insegnanti con la vita contemporanea. Questo mi sembra sia venuto fuori. Rimango nel mio pregiudizio: la gita scolastica, così come è fatta negli ultimi 50 anni, è un'indegna gazzarra e andrebbe abolita. A domani.